Le idee viventi di Maria Gimbutas. Parte prima, la religione nell'Europa pre-patriarcale. Capitolo primo, immagini di dee e di dei. Nell'Europa del Neolitico e in Asia Minore, l'antica Anatolia, nell'arco di tempo tra il 7000 e il 3000 a.C., la devozione religiosa si rivolgeva alla ruota della vita e alla sua ciclica rotazione. Questa è l'area geografica e la cornice cronologica che io definisco antica Europa. Nell'antica Europa il punto focale della religione comprendeva nascita, nutrimento, crescita, morte e rigenerazione, parallelamente alla coltivazione delle messi e all'allevamento degli animali. I popoli di questa era ritenevano imponderabili le forze naturali, così come piante e cicli animali, e adoravano molte dee o forse una sola dea in molte forme. La dea manifestava le sue innumerevoli forme attraverso varie fasi cicliche, che vigilavano sul buon andamento di ogni cosa. Molti erano i modi in cui si rivelava nei mille accadimenti della vita. Le sue raffigurazioni sono caratterizzate da un simbolismo molto complesso. Per prima cosa vorrei esplorare queste forme nel dettaglio, guardando soprattutto alle statuette della dea, e in seguito vorrei cercare di districarne il significato. Le immagini della dea possono essere approssimativamente classificate sotto i suoi aspetti di dispensatrice di vita e sostentamento e portatrice di morte e rinnovamento. Nonostante anche la forza maschile sia determinante per la rigenerazione e per la stimolazione della vita, sia nel mondo vegetale sia in quello animale, era la forza femminile a pervadere l'esistenza. Statuette. Piccole statue ritrovate negli scavi degli insediamenti, cimiteri e tombe dell'Europa antica costituiscono un riferimento importante per comprendere la religione di quest'area. Quando gli antichi europei scoprirono come cuocere la ceramica intorno al settimo millennio avanti Cristo, si inaugurò un nuovo modo di esprimere ideali religiosi. Una varietà di forme in ceramica, vasi, statuette e strumenti rituali mostrano i simboli spirituali dell'Europa antica. Nonostante le culture antiche europee continuassero a creare manufatti religiosi in altre materie, pietra, osso, ambra e altro, fu la ceramica a manifestare nel modo più ricco il mondo simbolico dell'Europa antica. Naturalmente la conservazione archeologica favorisce i manufatti più piccoli. Statuette di ceramica alte pochi centimetri hanno più possibilità di conservarsi sotto parecchi metri di terra per 7 o più millenni rispetto a statue di ceramica a grandezza naturale. Di conseguenza capita spesso di ritrovare piccole statuette intatte e statue più grandi ridotte in molti pezzi. La maggior parte di queste statuette stanno in una mano. I loro scultori spesso le caratterizzavano con simboli sacri, sotto forma di segni sulla faccia, disegni geometrici e segni che forse erano una sorta di scrittura. I nostri antenati neolitici non solo crearono statuette per rappresentare determinate divinità, sacerdotesse o altre figure mitologiche. Essi, con queste statuette, celebravano anche dei rituali. Le scoperte non riguardano solo statuette femminili e maschili, che possono essere state fatte per rappresentare dee o dei, ma anche troni, vasi, altari sacrificali, arredi, strumenti musicali, perfino templi in miniatura. Questi ultimi costituiscono dei prototipi, fornendo prove archeologiche addizionali. Gli antichi avevano prodotto manufatti religiosi anche in altro materiale, per esempio il tessuto o il legno, ma, tranne in casi straordinari, sono andati quasi tutti perduti, perciò i piccoli oggetti di ceramica sono tra i reperti più importanti per decifrare la religione antica europea. Quasi tutti i siti archeologici in Italia, nei Balcani e nell'Europa centrale contengono questi oggetti risalenti a quasi tutto il periodo neolitico. Lì si trova anche in Asia Minore, cioè antica Anatolia, l'odierna Turchia, in Medio Oriente e in misura molto minore in Europa occidentale e in quella del Nord. Spesso dove i siti raggiungono molti metri di profondità, a rappresentare secoli o anche millenni di occupazione, si trovano statuette in quasi tutti gli strati, da cui si può spesso dedurre un'evoluzione artistica dai primi strati agli ultimi, segno dell'importanza di questi oggetti per gli abitanti del luogo, generazione dopo generazione. Il Neolitico, o prima era agricola, costituisce una fonte molto più feconda per decifrare le statuette rispetto alle epoche precedenti, il Mesolitico o il Paleolitico superiore tardo. I manufatti delle ere più antiche spesso non sono collocabili nel loro contesto e nel caso dell'intero Paleolitico superiore si hanno solo circa 3.000 statuette. Per l'Europa antica, con la sua effusione di arte religiosa, sono state individuate così tante statuette in così tanti siti che non si possono quantificare con precisione. In tutto, le statuette dell'Europa antica sono all'incirca 100.000 o più, contando anche le statuette rotte o danneggiate, ignorate nei primi scavi. Fortunatamente, insediamenti, cimiteri e tombe, che rappresentano eccellenti contesti, costituiscono la maggior parte dei siti neolitici. Le innumerevoli statuette del Neolitico, nei loro siti originari, conservano in profondità la ricchezza della spiritualità antica europea. Il significato simbolico del corpo umano. Il corpo umano è uno dei simboli più importanti dell'Europa antica. Dalla nostra moderna prospettiva culturale si tende spesso ad accostare la nudità all'eccitazione sessuale. Il moderno specialista proietta queste abitudini indietro di migliaia di anni e presuppone che quell'antica rappresentazione del corpo si ponga fondamentalmente a servizio dello stesso desiderio. Il nostro schema culturale è inoltre condizionato dalla presunzione che le rappresentazioni femminili riguardino invariabilmente la fertilità della terra. Da qui tutti i manufatti che espongono nudità femminili diventano statuette della fertilità. Le culture dell'antica Europa senz'altro avevano a che fare con la fertilità, ma per quanto possiamo vedere, l'ampia varietà di statuette, in particolare i loro contesti archeologici del Neolitico, suggerisce un ruolo religioso più complesso svolto dalla forza femminile. L'arte molto sofisticata del Neolitico mette in scena, accentuando la nudità femminile, una sessualità naturale e sacra dimenticata dalla cultura moderna. Nell'arte religiosa il corpo umano simboleggia miriadi di funzioni oltre a quella sessuale, in particolare la procreazione, la nutrizione e il potenziamento della vita. Io non credo che nelle prime ere esistesse l'oscenità come concetto che coinvolgesse il corpo femminile o quello maschile. La rappresentazione del corpo svolgeva altre funzioni. Nello specifico, l'aspetto nutritivo e procreativo del corpo femminile e le qualità del corpo maschile che stimolano la vita. La forza femminile, come la dea gravida della vegetazione, incarna profondamente la fertilità della terra. Ma la complessa, sofisticata arte che coinvolge la dea neolitica è un mutevole caleidoscopio di significati. Essa personificava ogni fase della vita, della morte e della rigenerazione. La dea era la creatrice dalla quale tutta la vita umana, vegetale e animale deriva e alla quale tutto ritorna. Il suo era un ruolo che andava ben oltre l'erotismo. Il fatto che queste statuette femminili non riproducano realisticamente il corpo umano o animale smentisce il loro utilizzo come mera arte erotica. Il corpo è quasi sempre astratto o esagerato in qualche sua parte. Le modifiche non sono accidentali. Un breve sguardo sull'arte neolitica mostra che i più raffinati artigiani della ceramica potevano ottenere qualunque effetto desiderassero. Le modifiche apportate intenzionalmente al corpo umano esprimevano diverse manifestazioni dell'intima forza divina. Prima di discutere le tipologie di divinità rappresentate dalle statuette, occorre concentrarsi sulle varie particolarità dell'arte delle statuette, schematizzazione, maschere, geroglifici ed esagerazione di alcune parti del corpo, ovvero tutto ciò che era convenzionale per gli artisti dell'Europa antica. Forme stilizzate. Nell'Europa antica, i corpi maschili e femminili stilizzati, congiuntamente ai loro simboli, spesso rappresentavano la forza sacra. Molte statuette sono veri capolavori di ceramica, ma altre sono stranamente incomplete, a volte limitandosi a niente più che un semplice cilindro d'argilla con seni o natiche esagerati, o un ventre gonfio senza braccia o gambe. I loro creatori spesso vi incidevano simboli come bilinee o triline, spirali o meandri, zigzag o losanghe. Le statuette stilizzate costituiscono uno degli aspetti più accattivanti e intriganti dell'arte antica europea. Benché la pregevole somiglianza realistica sia quella che più attira l'attenzione, sono state trovate molte più figure stilizzate rispetto a quelle a figura intera. Questo non dovrebbe sorprendere, dato che l'arte preistorica era un'arte simbolica. Gli artigiani dell'Europa antica potevano facilmente creare statuette stilizzate e, come la croce cristiana, queste figure comunicavano nell'arte religiosa gli stessi concetti simbolici dell'arte rappresentativa. Queste immagini semplificate non sviliscono il corpo umano, anzi esprimono un messaggio sacro. Parti del corpo esagerate. Per esprimere determinate funzioni sacre, spesso le statuette e altre opere d'arte in ceramica presentano insolite mutazioni o enfatizzazioni. In particolare, le statuette femminili mostrano questo genere di accrescimento per rappresentare il complesso della forza femminile. Alcune statuette hanno un corpo esageratamente appesantito e sono state interpretate da qualcuno come figure obese o grasse signore. Indubbiamente il corpo esageratamente appesantito doveva essere tenuto in gran conto dal momento che compare sotto forma di statuette femminili in molte diverse culture. Altre statuette si concentrano sugli organi sessuali, i seni, la vulva e le natiche. Una tale enfasi accresce il potere di quella particolare parte del corpo. Per esempio, molte statuette e molti vasi mostrano seni prominenti. La tradizione di enfatizzare i seni in realtà incominciò molto prima, durante il Paleolitico superiore, e proseguì anche fino all'età del bronzo. I seni simboleggiano il nutrimento e la rigenerazione della vita. La riproduzione dei seni sulle ceramiche rituali mostra chiaramente il corpo femminile e, per estensione, il corpo della femmina divina come involucro di nutrimento o di rinnovamento. Nonostante i seni incarnino naturalmente il nutrimento e il sostentamento della vita, la loro vivida riproduzione sui muri delle tombe megalitiche indica anche il vasto ruolo spirituale della dea antica europea per quanto riguarda la morte e la rigenerazione della vita. In molte statuette, i seni e le parti superiori del corpo appaiono relativamente sottili e de-enfatizzate, mentre le parti inferiori, natiche, cosce e gambe, sono ingrandite oltre le proporzioni naturali. Il centro gravitazionale delle statuette e il suo significato religioso soggiace nella parte bassa del corpo. Queste statuette spesso esibiscono vulve e natiche enfatizzate. Nonostante si pensi quasi automaticamente alle vulve e alle natiche come a simboli sessuali, nell'arte dell'Europa antica esse significano più propriamente elargizione di vita e sostentamento, piuttosto che erotismo. Il valore simbolico delle natiche enfatizzate è collegato ai seni e al doppio uovo, in cui il potere del simbolo vivificante si accresce duplicandosi. Talvolta l'artigiano modellava le natiche di una statuetta su pezzi d'argilla o su ciottoli a forma di uovo, trasmettendo così l'interconnessione dei simboli delle natiche e dell'uovo. Le statuette del primo neolitico con le natiche a forma di uovo spesso sono incise con bilinee, forse per illustrare la dimensione per la quale un essere umano diventa due, la gravidanza. Sia nell'arte del Paleolitico superiore che in quella del Neolitico, la vulva domina le rappresentazioni simboliche, apparendo separatamente oppure molto ingrandita su statuette e recipienti di ceramica. La vulva Compare come un triangolo, un ovale, un cerchio aperto o anche come una gemma o un ramoscello, il che enfatizza il suo ruolo generatore di vita. La frequenza e la durata nel tempo di questo simbolo, più di 30.000 anni, nei reperti archeologici, testimoniano del suo ruolo essenziale nel sistema di credenze. La figura intera non era importante, solo le parti che stanno per il tutto. Si può facilmente comprendere perché la vulva figurasse in modo tanto preponderante sulle tracce scritte e i messaggi simbolici codificati dagli artigiani sulle statuette. Su una statuetta del 5000 a.C. circa ci sono semicerchi che mettono in evidenza una vulva ovale, mentre una decorazione a meandri e spirali si sviluppa sulle natiche e sulle cosce. Questa combinazione simbolica comunica dinamismo, crescita, flusso e mutamento. Come anche in altre forme simboliche, la forza femminile è attiva e dispensatrice di vita. La dea incarna il mistero di una vita nuova. Gli artisti dell'antica Europa usavano spesso, per indicare particolari aspetti del divino femminile, le forme animali. Si trovano piuttosto di frequente statuette con testa di animale, per esempio serpente, uccello, maiale e orso. Tutte queste manifestazioni, con maschere o senza, rappresentano l'intimo rapporto tra il genere umano, la natura e il divino, tipico del Neolitico. Studiando i segni tracciati sulle maschere e sulle statuette si può comprendere come il divino si manifestasse attraverso i diversi animali. Le statuette hanno becchi d'uccello, occhi di serpente, corna di ariete, musi di orso o di maiale. Talvolta le statuette con corpo di animale portano maschere umane. Cervo, pesce, alci, serpenti, orsi, arieti, maiali, cani, cinghiali, porcospini, uccelli acquatici. Svolgono tutti parti importanti nel simbolismo religioso. La dea del parto. Le statuette che rappresentano la nascita sono testimonianze eloquenti del ruolo più ovvio della dea, quello di dispensatrice della vita. Gli artigiani del Neolitico la riproducevano seduta o semireclinata nella posizione del parto, con le ginocchia piegate e le gambe sollevate, talvolta con una mano dietro la testa, la vulva dilatata nel travaglio, la condizione fisiologica che precede immediatamente la nascita. La presenza di maschere e di tracciati simbolici su molte di queste statuette del parto conferma la loro natura spirituale e l'intento dell'artigiano di comunicare con la dea. La dea della nascita è presente per più di 20.000 anni, dal Paleolitico superiore fino a tutto il Neolitico. Può anche manifestarsi sotto forma trinitaria, come le tre dee del fato tipiche delle prime religioni storiche. Le Norne dei Germani, le Moire dei Greci, le Parche dei Romani sono tutte dee fatiche raggruppate in trinità. La nascita era un evento sacro, di fatto uno degli eventi più sacri attestati dalla religione del Neolitico. Nel primo Neolitico si allestivano camere speciali in cui aveva luogo il parto, camere che possono essere considerate una sorta di santuario della nascita. A Catalhöyük, nella Turchia centro-meridionale, l'antica Anatolia, gli scavi fecero emergere una camera in cui probabilmente venivano celebrati rituali connessi alla nascita. La camera è dipinta di rosso. Va detto che il rosso, il colore del sangue, era considerato il colore della vita. Figure illustrate sulle pareti illustrano donne partorienti, mentre forme circolari e linee ondulate dipinte accanto simboleggiano la cervice, il cordone ombelicale e il liquido amniotico. Una piccola piattaforma intonacata potrebbe essere stata usata per il parto effettivo. Il colore e i simboli presenti nella camera suggeriscono che la nascita veniva considerata un evento religioso accompagnato da rituali. Nell'isola di Malta, nel Mediterraneo centrale, alcuni manufatti indicano pratiche simili, compreso il modello di un piccolo giaciglio da parto. La connessione tra umidità, vita e dea del parto contiene un profondo significato cosmologico. La vita umana incomincia nel regno acqueo di un utero di donna. Così, per analogia, la dea era la sorgente di tutta la vita, umana, vegetale e animale. Essa regnava su tutte le fonti d'acqua, laghi, fiumi, sorgenti, pozzi e nuvole di pioggia. Il fatto che la dea generasse vita nuova è alla base dei simboli d'acqua come reti, onde e linee parallele. La nuova vita sgorga da un misterioso regno acqueo, analogo al liquido amniotico uterino. Il simbolo della rete, rintracciabile dal Neolitico fino all'epoca storica odierna, sembra essere associato in modo privilegiato con il liquido mistico dispensatore di vita. La rete simbolica ricorre in quadrati, ovali, circoli, losanghe, forme vescicolari, triangoli, triangoli pubici e strisce su vasi e statuette, spesso in relazione con serpenti, orsi, rane, pesci, teste di toro e di cervo. Anche in epoca storica, pozzi, fonti e specchi d'acqua sono stati considerati luoghi sacri di guarigione abitati da divinità femminili. Molti dei primi pellegrini cristiani visitavano fonti il cui santo patrono era femminile. Di solito la Vergine Maria o in Irlanda, per esempio, Santa Brigida. La dea del parto sopravvisse nella religione della Grecia classica come Artemide e Iletia e nel folklore paneuropeo come una delle tre dee o parche. I lettoni e i lituani celebravano la nascita nelle saune fino al XX secolo. Si propiziavano Laima, la dea del parto, filatrice e tessitrice della vita umana, con offerte che prevedevano la dedicazione di drappi o altri tessuti. La tradizione iconografica della madre con il bambino, così venerata in epoca cristiana, incominciò in realtà migliaia di anni fa e l'arte del Neolitico ne porta numerosi esempi. Le statuette, proprio come le loro equivalenti di epoca storica, mostrano una madre che allatta o tiene in braccio il suo bambino. Ma le caratteristiche sono inequivocabilmente neolitiche. La madre e il bambino hanno un corpo umano, ma entrambi possono indossare maschere incarnanti il divino o che li mettano in comunicazione con esso. Alcune delle più toccanti statuette dell'Europa antica rappresentano una madre in atteggiamento di tenerezza verso il proprio bambino. In alcuni casi, sia la madre che il bambino indossano maschere di orso. Inoltre, diverse statuette con la testa di orso hanno come un marsupio sulla schiena, probabilmente per trasportare il bambino. L'orsa e il cervo appaiono in modo significativo accanto alla dea del parto, che assumeva spesso simili forme nel suo presiedere alla nascita e alla cura dei piccoli. Gli antichi greci consideravano questi due animali l'incarnazione della dea Artemide e anche altre leggende popolari europee, dalle profonde radici preistoriche, connettono l'orso, il cervo e la dea del parto. La storia dell'orsa come nutrice cosmica si può far risalire fino al Paleolitico superiore, quando si incominciò ad osservarne le abitudini annuali di letargo e di risveglio. L'orsa era il simbolo perfetto della morte e della rigenerazione. Quando andava in letargo, entrava metaforicamente nel dominio della morte, così, quando usciva dalla caverna, era metaforicamente rinata. Ovviamente anche altri animali si ibernano, ma l'orsa evocava un simbolismo particolarmente potente. Essa non solo emergeva viva dalla caverna, ma portava pure con sé una nuova vita. Il cucciolo, nato e cresciuto durante l'inverno, quando si presumeva che l'orsa fosse caduta in un sonno simile alla morte. Di conseguenza, l'orsa, in questa significativa successione di nascita, morte e rinascita, finì per essere collegata con la dea che presiede le nascite. I numerosi motivi estetici che richiamano l'orso, usati nella creazione di lampade, vasi, statuette e contenitori per le offerte di squisita fattura, rivelano l'importanza rituale della dea orso. Anche il cervo o l'alce era sacro alla dea del parto. La tradizione simbolica del cervo uguaglia a quella dell'orso, estendendosi fino al Paleolitico superiore. Gli archeologi trovarono resti di cervo risalenti a circa il 14.000 avanti Cristo, disposti in fosse rituali presso alcune grotte in Spagna. La vita che si rinnova nei palchi del cervo, delle corna del cervo, assumeva un grande potere simbolico, a partire dal fatto che si riproponeva puntualmente nella stagione primaverile. Gli archeologi hanno spesso trovato palchi, scapole e denti di cervo nelle sepolture del Neolitico. Identificavano il cervo con le fonti, i torrenti e l'acqua della vita. A tutt'oggi, nelle mitologie dell'Asia e dell'Europa settentrionale, la cerva gravida è una mistica elargitrice di vita. La dea uccello. Gli uccelli, tra gli animali che ricorrono nell'arte neolitica, sono senz'altro i più frequenti. Nelle mitologie, in tutto il mondo, raccontano di come il cosmo si fosse originato da un uovo. E certamente l'uovo di uccello, in quanto fonte di vita, acquistava un forte significato simbolico. Inoltre, le uova di uccello costituivano una fonte di nutrimento, sia nel Neolitico sia nelle epoche precedenti. La misteriosa sparizione stagionale degli uccelli migratori e il loro enigmatico comparire da un uovo, fonte sia di nuova vita sia di nutrimento, contribuì probabilmente alla loro venerazione. Gli uccelli incarnavano salute, fertilità e buona sorte, tutti elementi importanti per il sostentamento della vita. La maggior parte delle statuette della dea uccello combinano la forma della femmina umana con quella di particolari specie di uccelli, acquatici come anatre, oche, gru, aironi, primaverili come il cuculo, oppure rapaci come i corvi, i falchi e gli avvoltoi. Gli uccelli acquatici compaiono più spesso su statuette e vasi. Il duplice ambiente di questi uccelli, la terra, presso fiumi o laghi, e il cielo, dove si origina la pioggia, fa di essi il legame tra la vita e l'aldilà. Il loro comparire su vasi e rituali connota la valenza vivificante dei liquidi sparsi in libagione. A tutt'oggi, nel folklore europeo, uccelli acquatici come cigni e anatre portano fortuna e ricchezze. Le statuette della dea uccello sono spesso rappresentate con il becco o una maschera di anatra su un corpo di donna. Quando non ha la maschera, il naso è modellato a forma di becco. In assenza di fattezze aviarie, spesso le statuette assumono una postura rannicchiata, le braccia corte, simili ad ali, e le dimensioni esagerate dei fianchi fanno pensare al corpo di un uccello. Nell'età del bronzo, gli artigiani riproducevano anitre a forma di imbarcazioni, oppure le ponevano al traino di carrozze che portavano la dea. Con la maschera o senza, le statuette della dea uccello mostrano i suoi simboli, linee a zigzag, trilinee, meandri e corsi d'acqua. I serpenti e la dea serpente. I serpenti vivono sia sulla terra che in acqua. Vanno in letargo scomparendo nel cuore della terra durante l'inverno e ricompaiono in primavera. Inoltre, la loro muta periodica rinforza il loro ruolo di simboli del rinnovamento. In questo modo si pensava che i serpenti portassero la vita in primavera e che incarnassero gli antenati morti. L'immagine classica della dea serpente la presenta seduta in posizione accovacciata, tipo yoga, con arti a forma di serpente. La testa può avere sembianze umane, serpentine, con maschere o anche con corone. Teste di serpente con occhi tondi e bocche larghe compaiono sugli orli o sui manici dei vasi. Anche alla dea serpente, come già alla dea uccello, si associano simboli particolari: spire di serpente, spirali, zigzag o linee ondeggianti a imitazione del movimento del serpente. La dea gravida della vegetazione. Il ciclo annuale di germinazione, crescita e raccolta era ritenuto dagli agricoltori preistorici sia un mistero sia un fatto della sussistenza materiale. Questi primi agricoltori dovevano aver riconosciuto l'analogia tra i semi del grano che germogliano nei campi e la nuova vita che cresce nel grembo femminile. In effetti, tale analogia è rappresentata in molti siti dell'Europa antica. La dea gravida della vegetazione, popolarmente nota come dea della terra o madre terra, fu una delle figure femminili più rappresentate tra quelle riprodotte nell'antica Europa neolitica. Centinaia di statuette della dea gravida sono state scoperte negli scavi dei centri antico-europei. Molte culture dell'Europa antica collegavano questa dea con il cibo, specialmente con il grano e con il pane. Gli archeologi trovarono sovente statuette della dea gravida presso forni per il pane. In particolare trovai altari e speciali piattaforme di pietra con fosse per le offerte accanto ai forni, forse associate ai rituali del raccolto. I contadini preistorici e storici si orientavano su un tempo ciclico, dal momento che sperimentavano il ciclo annuale di semina, crescita e raccolto. Celebravano feste e riti nei momenti appropriati durante il ciclo. La dea gravida della vegetazione, intimamente collegata con questo ciclo, mutava con il progredire dell'anno. Le statuette di questa dea, risalenti al Neolitico, la raffigurano spesso enormemente gonfia. Più tardi, questa figura è raffigurata in forma duale, rappresentando molto probabilmente la coppia madre-figlia, gli aspetti primaverili estivi e autunnali-invernali della dea. Quella gravida appare giovane e fertile, giustapposta al suo aspetto più anziano, la vecchiaia che si approssima alla morte e quindi alla rigenerazione. Nella prima cultura Cucuteni, in Romania, che risale circa al 4800-3500 a.C., i tecnici che esaminarono le statuette ai raggi X, statuette fatte di un'argilla molto porosa, vi trovarono infilati tre tipi di grano: il grano comune, l'orzo e il miglio. Quindi si osservò che il vasaio aveva temperato le statuette d'argilla con farina di grano duro, cuocendole immediatamente dopo la manifattura con l'argilla ancora umida. Abbiamo dunque una prova evidente di un rito che associa grano, farina e cottura con la dea, compiuto al fine di assicurare pane abbondante. Anche quando la cultura dell'Europa antica scomparve con il sopravvento dei sistemi sociali e religiosi indoeuropei, i contadini europei continuarono tenacemente a venerare questa dea.